Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, sei nell'orto degli ulivi insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. Hai detto loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Poco lontano tu pregavi: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. Quando sei tornato, li hai trovati addormentati. Vegliate e pregate, perché l'ora è giunta. Colui che mi tradirà sta arrivando. Il male si avvicina. Signore, eccoci nel Getsemani con te. Vogliamo asciugare il tuo sudore di sangue. Svegliaci, rivestici con la tua grazia, con il tuo amore. Fa che diventiamo persone sveglie, famiglie svegliate, sacerdoti e religiosi svegli. Ti ringraziamo per le tue gocce di sudore e di sangue. Fa che esse possano lavare le nostre anime, la nostra debolezza, le nostre mancanze. Signore, siamo alla tua scuola, nel tuo e nostro Getsemani. Fa che oggi le nostre gocce di sudore siano una medicina per guarire noi, le nostre famiglie, tutta la Chiesa. Eccoci nel Getsemani. Gesù, svegliaci. Facci sentire la tua voce. Facci vedere il tuo volto. Guidaci su questa via crucis e ispiraci a seguire il tuo esempio. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue. Vedetevela voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue rigata sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Signore, dopo il bacio del tuo apostolo Giuda, che ti ha procurato una ferita dolorosa, hai dovuto sentire la condanna della gente: sia messo a morte, sia crocifisso. Tu sei rimasto in silenzio. Non ti sei difeso, non ti sei giustificato, non hai cercato di essere liberato. Sei rimasto in silenzio. Oggi desideriamo pregare per tutti coloro che soffrono ingiustamente e sono perseguitati in diversi modi. Gesù, tu hai detto: come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Signore, noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Tocca il nostro cuore, affinché nessuno si tiri indietro. Donaci, Signore, la forza di sopportare il peso del giudizio, del rifiuto, del disprezzo, il peso della malvagità e della calunnia. Signore, siamo dinanzi a Te, siamo i Tuoi figli. Quando siamo insultati, fa che continuiamo a pregare. Quando siamo ritenuti senza valori, fa che continuiamo a pregare. Fa che quando veniamo giudicati, possiamo restare in silenzio, sopportare il dolore e lo sconforto in silenzio. Perché la nostra sofferenza, unita alla Tua, possa servire a guarire il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.